cercherò nel mio angolo di mondo, ti cercherò nei misteri più profondi, ti cercherò nelle lacrime versate, ti cercherò nelle foto ormai ingiallite, ti cercherò nelle foreste che hanno ucciso, ti cercherò nelle fabbriche occupate. Dammi ancora la mia luna adesso, dammi ancora il mio sole adesso, dammi ancora la mia terra adesso, non vogliamo vivere liberi. Cercherò, diavolo senza cuore, ti cercherò per sconfiggere il male, ti cercherò per le ragioni che tu sai, ti cercherò nella fame, nella povertà, ti cercherò anche in fondo all'anima, ti cercherò sui marciapiedi della notte. Dammi ancora la mia luna adesso, dammi ancora il mio sole adesso, dammi ancora la mia terra adesso, noi vogliamo vivere liberi. Parlerò delle ingiustizie sui popoli, ti parlerò della pace nel mondo, ti parlerò della violenza senza fine, ti parlerò appeso al mio destino, ti parlerò dei sogni che hai spezzato, io parlerò e il vento mi ascolterà. Dammi ancora la mia luna adesso, dammi ancora il mio sole adesso, dammi ancora la mia terra adesso, non vogliamo vivere liberi. Dammi ancora la mia luna adesso, dammi ancora il mio sole adesso, dammi ancora la mia terra adesso, non vogliamo vivere liberi.